Vabbè, buonasera a tutti, c'è il cavo un po' corto, va bene così? Grazie per essere venuti stasera o anche stasera per chi c'era nelle puntate precedenti. Questa appunto è una rassegna sull'abitare, siamo contenti di vedervi numerosi, il clima aiuta, però è anche una causa che è di sempre più persone purtroppo e per fortuna. E quindi il cinema ha anche il valore di questo, di metterci in connessione e vorrei approfittare di questo momento che siete in così tanti e così attenti per introdurre Alessandra dell'Assemblea di lotta per la sanatoria che ci parlerà un attimo dell'Assemblea che ci sarà il 3 luglio che raccoglie tante assemblee per il diritto all'abitare. Ok, buonasera a tutti e a tutte. Vi rubo solo 2 minuti. Allora, giovedì 3 luglio alle 18:30 in Piazza delle Lodi ci sarà un corteo per il diritto all'abitare. Quello di giovedì è una tappa di un percorso che si sta costruendo in città, che riunisce diverse realtà che a vario titolo si occupano di diritto all'abitare. Noi siamo una di quelle realtà che è l'Assemblea di lotta per la sanatoria e lottiamo per l'assegnazione delle case popolari, la sanatoria delle occupazioni contro questo modello di Milano, di città privatizzata ed escludente. E niente, volevo solo ricordarvi questo. Ripeto, è un percorso, questa è una prima tappa che porterà ad altri appuntamenti. Ripeto, è giovedì 3 luglio alle 18:30 in Piazza delle Lodi. Grazie. Partecipate numerosi, come dice Totò. Spero di vedervi tutti. Allora, innanzitutto grazie a tutte le persone che sono qui, sono felice di vedervi davvero numerosi. E questo è un percorso che è iniziato grazie, diciamo, sicuramente alla disponibilità delle persone e anche appunto dell'accoglienza che ci hanno dato le persone qua del COX 18. Io sono Marco e insieme anche ai miei colleghi Simone Sole, altri registi di Essere Urbani, per chi l'ha visto, faceva parte sempre della rassegna, abbiamo messo su questo, diciamo, si è creata, come dire, questa opportunità proprio per indagare, come dire, il tema dell'abitare. Abbiamo fatto con progetti che si muovevano, diciamo, in giro per l'Italia, un po' da nord a sud. Questa, diciamo, è la sera finale della rassegna. Abbiamo deciso di andare un po' oltre, al di fuori dell'Italia. Andiamo infatti addirittura a Tokyo e ad Amsterdam, parlando di abitare e di come si vive diciamo, la socialità nella città o addirittura anche la mancanza in qualche maniera della socialità in queste città. Abbiamo la fortuna di vedere questi due bellissimi film e di avere qui anche la presenza dei registi e vorrei fare un grande applauso che vengano. Abbiamo Mirte Jeffma, regista di The Thinking Fringe, insieme a Michele Mozzo e abbiamo anche la fortuna di avere. Vieni Alberto! Alberto Morbelli, direttore della fotografia di The Thinking Fringe. Sì, come? E anche Caterina, scusate, vieni pure. Direi che lascio adesso momentaneamente la parola a loro, che faranno comunque un'introduzione di quello che è stato il progetto e anche un po' di quella che è la situazione in un altro paese come appunto l'Olanda. E magari anche Michele vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che l'ha portato, diciamo, alla produzione del film. Grazie. Grazie per tutti per essere qui, sono molto felice per essere qui con noi. Sono olandese da Amsterdam e lavoro all'Università di Amsterdam e sono la regista di questo documentario insieme con Alberto Morbelli. E questo documentario è un lavoro di amore, del cuore. È una storia del gruppo di persone molto interessanti, molto speciali. E per un anno ho lavorato con loro per creare un posto per persone diverse in una città di Amsterdam. E we want. Vogliamo. Vogliamo. Introduce. della context di Amsterdam, anche con un perspectivo historicamente. E Alberto, you can do it. Non sarei in grado neanche di iniziare la prima parola in olandese, quindi bravissima, non sarei qui capace di fare lo stesso in olandese. E vorrei semplicemente partire da un breve contesto che è Amsterdam come città, che, nella quale sto vivendo da un annetto, e fin da subito riesce a capire quanto il suo passato abbia influito anche sul suo presente, ovvero rendendola la città che è, la città che tutti conosciamo, che non è soltanto una città dove appunto si va a fumare e a fare altro, è una città dove gli spazi comuni sono molto presenti e dove la tua persona, a seconda di quello che tu faccia, non ha un prezzo, ecco, nel senso, noi in questo documentario, come potrete vedere, abbiamo scelto di parlare di questa comunità, che in realtà sono più comunità, che vivono nello stesso quartiere, coesistono insieme e passano dagli studenti agli artisti a altre persone che invece vogliono soltanto vivere in modo alternativo. Quindi alternativo vuol dire anche non avere per forza delle mura, ma una casa che si può spostare, quindi spiriti liberi. E questo quartiere ad Amsterdam è un bellissimo esempio di poi tutte quelle cose che rendono una città vibrante, che rendono una città accogliente, una città dove le persone possono trovare il proprio sé e quindi va contro tutte quelle... scusate, sono un po' emozionato, va contro tutte le tendenze delle città odierne, appunto, che diventano sempre più esclusive. E io, ad esempio, sono una persona che ha sempre lavorato nel cinema e sono dovuto andare via. E mi spiace, perché sarei tornato volentieri a Milano, ma Amsterdam è molto bella. E detto questo, volevo soltanto partire con un contesto, diciamo, più storico, quindi un po' meno all'Alberto. E volevo soltanto raccontarvi di una legge che esisteva ad Amsterdam negli anni Ottanta, in cui sostanzialmente una casa poteva essere occupata legalmente se tu potevi dimostrare che dentro quella casa c'era un letto, una sedia e un barattolo di vernice. Questo solo per raccontarvi che il comune di Amsterdam fin dall'inizio, o comunque le necessità, ha fatto sì che si capisse che l'occupare non era una cosa, diciamo, sbagliata, era una necessità sia dal punto di vista abitativo per le persone che non potevano permettersi di vivere in case pagandole, sia per anche il comune di Amsterdam, che così facendo dava la possibilità a persone di amare un posto che sennò sarebbe stato completamente disabitato e abbandonato a se stesso. Questo ha fatto sì che ora come ora Amsterdam, in realtà, nel proprio comune abbia tipo proprio un ufficio creato ad hoc, dove le persone che occupavano lavorano per il comune e fanno sì che ci si creano delle sinergie. Non è un organo che è volto a reprimere o a controllare, ma anzi è volto a far sì che le cose succedano legalmente o comunque come dovrebbe essere, ecco. E il nostro documentario parla invece però di una tendenza che è reale e perfino ad Amsterdam sta arrivando, e quindi credo che sia buona visione, non so cosa dire, ma ecco, se succede lì, che è un esempio, è sempre stato un esempio, dovremmo tutti preoccuparci, ecco. Caro Corto, Corto? Lungo? No? Ok. Ma Gaijin è un progetto un po' particolare, perché non nasce da un desiderio preciso di un messaggio chiaro. È emerso strada facendo, perché si è trattato di prendersi un mese di stacco dal lavoro, dal tran tran milanese, perché faccio il montatore video, quindi passo molto tempo chiuso nella grotta. E quindi sì, mi sono preso un mesetto per scappare, ho trovato il modo di farlo senza spendere molto, andando molto lontano, e in quel mese, 5 settimane a dire il vero, ho incontrato Caterina che mi ha dato un grandissimo aiuto su tutte le questioni legate alla produzione e ho trovato delle persone con cui girare. Che cosa? Boh. Giriamo. Quindi è un racconto antologico, le storie sono legate da una figura che scoprirete, ma non saprei dirvi esattamente che cosa state per vedere. Quindi in bocca al lupo e buona visione. Allora, insomma, quello che è emerso da quello che dice lui è che è stato un processo molto intuitivo e spontaneo, però credo che ci sia un significato ed è il trovare nelle storie di queste persone invisibili a Tokyo, perché poi trovare gente con cui girare non è facile. Tante volte le persone straniere, che sono a Tokyo soprattutto, vivono in una situazione in cui vogliono dare il massimo e quindi si buttano un sacco, quindi abbiamo incontrato tanti gaijin, appunto, che significa stranieri, e quindi ne è emerso un bellissimo racconto di 7 storie di stranieri che vivono a Tokyo, che è una città alienante, e insomma cercano di integrarsi in una città in cui sarai per sempre straniero. E niente, Michele è stato bravissimo, oltre che non è soltanto un regista, cioè proprio un artista a 360 gradi, perché ha fatto tutto lui col suo zainetto, come dico sempre, era lì col suo zainetto con 30-40 kg di roba addosso ed è riuscito a cacciare veramente il vero spirito di Tokyo, non la Tokyo raccontata, piena di luci e turistica, insomma è riuscito proprio a prendere le storie della strada, cioè si sente proprio l'atmosfera della Tokyo vera. E niente, bravo Michele, è stato bravissimo, ha fatto tutto da solo. Bravo, anche tu. Perfetto, direi che hanno fatto una perfetta introduzione, direi senza ulteriori indugi, buona visione. Grazie. Il nostro documentario è un documentario di action documentary e usarlo per the fight, la lotta. Per esempio a novembre è un'altra versione per il nostro documentario e usarlo per creare diverse screenings anche con persone di politici la momenta di Pakhuis de Zwijger è un momento di presentazione da piano alternativa e un momento per parlare anche con le persone di politici per provare di cambiarlo le cose. Adesso la spazio di 7 comunità è solo 4 communities are still there, però sì, il futuro non è bello per queste quartiere, è un lotto molto lungo e anche emozionante, però questo documentario è stato ricevuto e molto bene con la comunità nel quartiere. Organizziamo insieme un po' di più di 20 screenings ad Amsterdam e ancora un punto di agenda nella comunità di Amsterdam. I hope it will change something. Speriamo. Magari appunto se qualcuno ha delle domande che vuole porre ai registi, era il momento giusto per farlo. L'altre tre è distruttere, sì, they are not there anymore. Le persone, trovato altri casi in Amsterdam o altri posti, in una comunità in speciale, un squat, un'occupazione, però un'occupazione grandissimo, c'è davvero un bel po' di spazio, e loro invitato parte di gruppo di studenti, però è una situazione molto difficile, sì, sì, sì. Altre domande? Ma quindi c'è una distruzione, non è completata? Non è completato, no. In realtà la comunità di Kermes, di Funfair Community, sì, le Gioste di Circo, è l'ultima comunità con housing rights. Mm. Diritti, sì, diritto alla casa. Diritto alla casa. E quindi la comunità di Amsterdam ha bisogno di trovare un altro posto per loro, però non c'è un altro posto per loro perché la città è piena, e quindi quando non è un altro posto per loro, nessuno è succedere. Però la comunità di Amsterdam è deciso per iniziare di costruzione, di destruct gli altri posti. Secondo me è perché gli altri posti, le tre comunità di, that are already destroyed, e le comunità di molto, molto forte, molto resistere, molto attiva. E secondo me questo è l'unico cosa da vera. Sì. Sì. Ho una domanda per Michele. Se quando sei andato a Tokyo avevi già un'idea di com'era abitare a Tokyo, magari tramite racconti o film, oppure l'hai costruita insieme alle persone che hai incontrato? Ma in realtà no, non avevo idea di niente, perché non sono mai uscito dall'Europa né tantomeno andato in Asia, quindi mi ha scioccato, mi ha ribaltato. Poi, stando lì, ho pensato solo a girare. Non è che me la sono goduta a pieno, perché avevo in testa sta roba qua e non sapevo esattamente che cosa avrei fatto. Sapevo che l'unico modo per farlo era ridurre il problema in parti più piccole, quindi un racconto antologico con una cornice forte, quindi non era ancora una faccia nel cielo l'idea, però un narratore esterno che tenesse tutto insieme, un po' come il vostro disegno in controluce, che tiene insieme tutta la storia e aiuta. A proposito, ma poi ci sono state delle concessioni, cioè il sindaco, il comune, è venuto incontro alle comunità in qualche misura o è rimasto sempre gelido e distaccato rispetto a... Non ho capito. Scusa. No, perché al momento la discussione nel municipio e nel parte del municipio di... land value, come si dice? Land. Come? Il valore del territorio. Del valore, sì, di territorialità. E questo parte del municipio ha bisogno di soldi per pagare per altre parti del municipio. E quindi questa parte è molto capitalismo. Molto capitalismo. E quindi il nostro piano è un piano senza valore di land. Okay. Sì, sì, senza, diciamo, fare un investimento. In sì, senza investimento, esatto. E quindi per loro non è un bel piano, perché non è soldi. Sì, sì, sì, sì, esatto. Capisco, capiamo, credo. Sì, secondo me è lo stesso in Milano. Sì. Vorrei dire una cosa. Sì. Allora, è interessante ovviamente vedere questi punti di di differenza che possiamo ritrovare appunto ad Amsterdam, per quello che era un tipo di comunità molto viva, molto attiva, e che come avete visto è stata gradualmente smantellata. E poi è stato molto interessante vedere, come dire, anche il tuo approccio. Anch'io effettivamente sono rimasto un po', non lo so, un po' frastornato dal tuo film, e piacevolmente frastornato, voglio dire, l'ho trovato molto interessante, molto alienante, e mi ha fatto ragionare un po' del tipo di percezione che a volte anch'io ho, non so voi, anche quando magari vivo a Milano. E riprendendo un po' tutto, diciamo, il discorso, e ricollegandomi in particolare al tuo film, Mirte, mi viene da pensare a quello che sta succedendo attualmente a Milano, in particolare in vista poi delle Olimpiadi, nel senso che io abito nel quartiere di Corvetto, e tutta l'area, diciamo, diciamo da, come dire, da Corso Lodi, iniziando magari da Porta Romana fino a Rogoredo, diciamo, sta venendo gradualmente gentrificata, i prezzi sono sempre più alti, e quindi, sempre parlando, come dire, di valore immobiliare, quindi anche di speculazione, diciamo, il comune si è espresso abbastanza chiaramente rispetto a quello che desidera fare, nel senso, sono stati fatti, effettuati tantissimi sfratti, un sacco di persone praticamente espulse, insomma, l'unica forza, come posso dire, l'unica forma di resistenza è quella, anche non l'unica, però una abbastanza significativa nella zona, è quella che sta portando avanti la rete solidale Ci Siamo, che non so se voi tutti voi magari conoscete, però c'è un'occupazione attualmente all'ex centro vaccinale, quello in Viale in Brenta, e insomma per il momento stanno resistendo. Quello è un nodo focale nella zona, anche perché proprio si trova al centro di tutto questo processo, e non lo so, però è sul discorso, diciamo, del comune. Ecco, nel vostro film diciamo l'amministrazione comunale se n'è fregata totalmente. Qua c'è resistenza, però mi sembra che le intenzioni del comune vadano davvero dall'altra parte. Quindi grazie intanto per il vostro punto di vista. Non so se dal pubblico ci sono degli spunti, delle domande che vorreste fare ai registi. È un po' corto, però aspetta, vediamo se... Provo in italiano, sennò provo in inglese. Avevo due domande. Una, se non c'è stata, come dire, una solidarietà da parte di movimenti per la casa o sindacati inquilini ad Amsterdam rispetto al vostro quartiere Buitenhof, nel senso, perché immagino che un'esperienza così, così forte, così, così vivace fosse anche conosciuta nel resto della città. Quindi hai capito la domanda? There was some solidarity from other movements for the housing rights in the other parts of the city with your collectivities, that was, it seems really strong, really important. E legata a questa, avevate un legame con altre realtà simili? Perché io ho vissuto per anni in Francia, e per anni c'era un'esperienza che si chiama la ZAD, Zona de Fondre, Notre Dame des Landes, che era un'esperienza molto simile. Mi ha richiamato proprio la vostra esperienza, proprio come approccio comunitario, come luogo artistico, creativo. Hai capito? Devo tradurre? Ok, grazie. Grazie per la domanda. Sì, è un sacco di posti diversi e gruppi diversi, e vogliono lo stesso cose e un sacco di solidarietà. Però secondo me il problema con Amsterdam è un sacco di posti adesso e in vito lotto fight lotta e quindi qui tutti i lotti è molto locali, non è un lotto grande. Invece negli anni 80 è un movimento per abitare grandissimo, però adesso è molto molto meno. E secondo me il problema è quello, è un sacco di solidarity, però organizziamo tutti insieme è molto difficile. E perché la discorsa è così, è un problema delle case in Amsterdam, e quello posto non è tante gente per la terra, e quindi quando cambiarlo è un posto libero per molto più gente. È vero, però la casa è molto molto più expensive, costoso, e quindi è solo una soluzione per un gruppo, ma non per un altro gruppo, e queste discussioni non abbiamo. Per chi è la città? Non è una discussione adesso, è solo una discussione molto locale. E adesso proviamo per creare un movimento un po' più grande, un po' più con tutti, magari, sì, magari anche con le persone in Francia, in Italia, sì, sì, grazie. Conoscevate la ZAD, questo posto in Francia? Sì, sì, lo so. Their screens, but also with this kind of discussion, this idea of life, you know. Sì, grazie per la domanda. Secondo me è la moda di vivere insieme e la moda di cooperativa. E quello è un modo, è possibile. È possibile anche in Milano, invece due persone qui di base Gaia in cooperativa in Milano, e mio sogno è creare una rete di cooperativa, perché anche loro nostro alternativa è creare un cooperativa, e il modo cooperativo è l'unico modo è possibile di creare qualcos'altro, perché non è di soldi, è per altri valori, tipo vivere insieme, vivere con un orto, creare qualcosa da solo. Questo valore è solo possibile quando il valore di soldi non è il valore di cese tutti. E quindi, secondo me, la storia delle cooperative è una storia per tutta per il mondo. E quindi, to talk about it helps. Sì. Parlarne in aiuto. Parlare in aiuto. Stiamo, esatto, cercando di fare. Sì. Sì. E sono un po' di domande, un po' di mani alzate. Sono felice, tra l'altro, che mi stia stimando. Prego. Beh, lo dico anche se... No, lo dico forse. No, volevo ringraziarvi per i vostri film, è stato importante. E volevo fare una domanda a Michele, cioè più domande forse. Come sei entrato in relazione con le persone che sono dentro il tuo film? E se hai avuto modo di fargli vedere il film? E se, perché io ho avuto l'impressione che ogni persona si sentisse molto sola, no? In questo gigantesco alveare. E mi sono chiesta se attraverso il tuo film in qualche modo non si siano un po' trovati, no? Non so se mi sono spiegata. Sì, ma credo che valga solo per... l'hanno visto tutti. L'hanno visto tutti i partecipanti al film, hanno visto il film, li ho conosciuti nelle maniere più disparate, o li ho adescati su internet, oppure li ho incontrati in sale fumatori, perché lì non si può fumare all'aperto, ci sono dei cubicoli dove solo lì si può fumare. E lì ad esempio ho trovato questo giapponese che parlava con un accento fortemente sardo e quindi mi sono incuriosito, sono andato lì, sto cercando gente. Salta fuori che è un chitarrista classico che ha studiato a Sassari, al conservatorio, per scappare dalla madre che lo voleva ballerino di danza classica. Lui è scappato da questa versione alternativa della sua vita per abbracciare la chitarra a Sassari, dove si è innamorato, poi è tornato in Giappone con la sua sara moglie, presto. E loro è piaciuto molto il risultato. Ad esempio la ragazza, la modella, forse non è piaciuto così tanto, perché non so, gliel'ho mandato, non mi ha risposto. Però il pazzo alla fine, Mark, che poi in realtà si chiama Mar, perché è un uomo dalle mille versioni, lui l'ho incontrato a un meetup per operatori del settore audiovisivi, ed è un bel mattacchione, è un gran mattacchione, ma ho due ore e mezza di lui che racconta tutta la sua vita e piange, non le ho messe dentro, però è forte, una storia di incredibile, di abusi, di sembra che sia una bella storia detta così, è una storia incredibile di abusi e di droga e di genitori pazzi, insomma una storia incredibile, che prima o poi metterò su YouTube per chi mi ha dato il permesso. E lui era incredibilmente felice del risultato, si è rivisto tanto in quello che ha visto, perché lui è così, non gli ho dato nessuna direzione, gli ho detto ok, tu sei un performer, sei un mattacchione, dacci dentro, poi ci penso in montaggio. E mi ha regalato quel pianto non programmato in cima a un grattacielo, che è stato un momento incredibilmente intenso e surreale, perché eravamo solo io e lui, appena conosciuti. E lui mi si mette a piangere davanti, che cosa devi dire? E quindi sì, qualcuno l'ha capito, qualcun altro meno, però mi sembra di aver colto una maggioranza di persone che hanno apprezzato il lavoro, quindi sono contento, sono contento. La voce narrante è stata scritta, è scritta. E il narratore è un chitarrista metal che ho conosciuto a un certo punto, Koei si chiama, ha una voce bellissima, ha interpretato benissimo il testo, che è stato tradotto con l'aiuto del chitarrista sardo giapponese, giappo sardo, ha fatto un lavoro bellissimo, è la colonna del cortometraggio, quella roba là. Sono stato 5 settimane. Ho deciso di partire 2 settimane prima della partenza, ho visto dei costi molto vantaggiosi e quindi mi sono lanciato, sono stato lì appunto sì 5 settimane e ho dovuto fare tutto, preproduzione, produzione, poi il montaggio me lo sono portato a Milano, però 5 settimane dense, tutte le riprese 5 settimane, 10 tera di roba, una quantità di ore terribile, un sacco di fegatelli, un disastro, sempre con sto zaino. Bellissimo, bellissimo. Anche io ho una domanda. How was it received locally? Piuttosto bene. Diciamo, accolto, ricevuto, diciamo, localmente lì in Giappone. Ma non so se, non penso in realtà che i festival siano un gran buon parametro, perché lì poi sono soggettività specifiche che prendono decisioni, quindi non vuol dire tutto e niente, però siamo appena ritornati da Tokyo perché un festival, lo Short Shorts Film Festival, abbiamo vinto una categoria che era proprio il premio del sindaco. Quindi abbiamo vinto questo premio che ci è stato conferito dal sindaco, dalla sindaca Keiko Koike, non mi ricordo, di Tokyo. Quindi mi sembra di capire che sia stato ben recepito e compreso. Sì. Quindi non l'avrei detto, perché comunque entri a gamba tesa in un'altra cultura, dicendo delle cose magari un pelino fuori dalle righe, un pelino, non tanto, però un pelino, facendo finta sostanzialmente di sapere di quello di cui sta parlando, quando invece non ci capisco niente di Giappone, non so nulla. Ho portato lì la mia esperienza su Milano, in realtà, perché non sono un grande, il più innamorato dei cittadini della propria città, insomma sì, ci siamo capiti, e quindi ho portato lì un po' il mio malcontento. Paradossalmente lì la questione abitativa non è un tema così scottante, perché vuoi per i terremoti, vuoi perché hanno un'enorme area, la speculazione edilizia non è un tema forte come da noi. Quindi, sorprendentemente, non l'avrei detto, puoi trovare affitti in zone centrali, semicentrali, che costano, non so, un monolocale ti costa quanto una stanza in condivisione a Milano, però sei a Tokyo. Questo mi ha sorpreso molto. C'era una domanda in fondo. Prego. Aspetta che non si sente benissimo, perdonami. Perché non vi siete occupati della parte, diciamo, finanziaria? Sì, c'è la parte finanziaria di cui voi non parlate. La parte finanziaria è quella che si occuperà di costruire palazzi, di riempire le sacche, di capire che cazzo che dovremmo stare qui. Chi sono? Why didn't you describe the Who is behind the financial speculation? Perché la I don't know. But I don't know who is the company. How do you say that? Chi sono le aziende? Dici? No. Non so chi se le ne chi, quali sono le aziende? Non so quali agenzie, perché la terra è di proprietà di municipio, e quindi in realtà adesso è il municipio, nel futuro è un altro partito, però adesso nessuno conosco chi è, e quindi è molto difficile per to fight them. Sì. Sì. Hai un'altra domanda davanti? Sì. Mi sono accorto all'inizio di questo documentario che io ho sentito parlare di questo posto negli anni '80 ad Amsterdam, dove ho vissuto un periodo breve, dove c'era appunto il movimento, penso che tu conosci, che è Kraken, se non lo conosco, sì. No? E c'erano delle occupazioni a Danza, per cui dei Mur e altre occupazioni. E io pensavo che questo posto non esistesse più da tantissimi anni. Sono contento che durasse tutto questo tempo. La domanda era, come ha fatto a sopravvivere? Uh, how the life was in the last few years and if it was repressed? Yeah, because he thought he didn't exist anymore because he went when he was during the 80s. Allora è diverso di anni 80, però è sempre anche adesso e posti, questo non è l'ultimo posto invece, è un 5 o 10 posti così nella città, però adesso si vede è cambiato molto rapido per cambiarlo questi posti, perché la città nasce e posti ad inizio al preferito e adesso nel centro e quindi è un po' difficile, però ci sono anche altri posti così, sì. In realtà il municipio di Amsterdam è ancora una regola per proteggere questi posti e quindi è molto strano e quelli posti c'è ancora distruttere quando è anche un regole, però non è un legally binding. Non è legalmente, però sono un policy per proteggere questi posti. Sì, e quindi questa è la situazione. Secondo me è anche una... tutti i posti non è lo stesso. Quali posti è preferiti per il municipio e quelli è proteggere. E gli altri posti non è così belle, non è così artistiche, non è così creare anche valore per il municipio e quelli posti è distruttere. E quindi sì, qual è la situazione? Una domanda, sempre per sì. Ma sei riuscita a far vedere questo film ai cittadini di Amsterdam che magari non conoscevano questa realtà e un po' farlo conoscere anche agli abitanti di Amsterdam che magari sono, non lo so, più, cioè che non lo conoscevano in qualche modo? For other people in Amsterdam? Yeah. Sì, in realtà queste neighborhood? Quartiere. Non è molto aperto per gli altri posti della città. Per esempio, quando sei con bici e un sacco di alberi e non vede niente e quindi per un sacco di gente, la maggiore parte di persone che ha visto il film hai detto ma va, non lo sapevo e mi piace quella idea, quello posto, quello quartiere è qualcosa che that we can do per aiutare e quindi quello è un action documentario e all'inizio noi please help, però ad un certo punto è impossibile e adesso è un po', sì, adesso è un po', cioè, la storia è un po' triste, ma quanto persone hai visto il film è molto, è un action movie, anche loro dicono voglio proteggere altri posti perché ci sono altri posti, sì. No, dimostrazione sulla strada non così grande, Però al momento che il nostro filming è un gruppo di occupazione queste case e noi decisimo non per filiarmi questo gruppo perché è un action documentary e in quel momento noi progettiamo questo film e loro nel strade e nelle case occupate. E quindi è un'altra parte che non parlano qui perché è molto I don't want to do harm but to be honest per essere onesta, sono un po' disappointed, delusa, perché non è una grande manifestazione sul strada, però questo posto è anche la parte di studente, è un posto di cuore di tutte le giovani nella città, perché la festa è incredibile, davvero, e tutte le persone davvero amo questo posto e per me, perché non è un grande manifestazione sulla strada? Per tutti i giovani che dicono, ma dove cazzo io vive? Non lo so. Sì. Ma magari nel futuro. Adesso organizziamo un gruppo di tenants union organizziamo manifestazioni e tutti perché tutte le lotte è locale e questo è il problema nell'Amsterdam adesso. Sì. Allora, se non ci sono altre domande, beh, io vorrei proporre un grandissimo ultimo applauso a Mirte, a Michele, ad Alberto, che non so dove sia, e anche a Caterina, ovviamente. E non ultimi... E anche per noi, grazie mille, grazie per il posto, grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. No, davvero, grazie ovviamente anche a tutte le persone del Cox che hanno reso questa... Insomma, ci hanno messo a disposizione... Cosa? Andiamo avanti. Allora... benissimo, cioè contentissimi. Allora sì. Dico una cosa, la dico anch'io. Uno, non ci credo che in 5 settimane hai potuto fare un film così sul Giappone, un film così giapponese sul Giappone. È veramente pazzesco come è giapponese proprio. E sono anche contento che la tensione abitativa di Tokyo sia calata, se a Tokyo eri, perché quando mi era capitato di andarci io era una cosa impressionante. Questo qua secondo me invece il film di Amsterdam c'ha il pregio che racconta un senso e un modo del vivere, cioè noi abbiamo avuto 4-5 perché questa è la quinta, 5 serate sull'abitare urbano mediamente più durette, ecco, cioè diciamo l'oggetto narrativo era un pochino più sofferente e sofferto, benché questo finisca male, però racconta un senso e un modo di un senso dell'abitare diverso da quello in cui ci troviamo a cartocciarci, ecco, così in qualche modo. Poi come andrà a finire non si sa, le cose ci vuol tempo, per le cose ci vuol tempo. Basta, questo finisce la quinta e di questa rassegna, ce n'è pronta un'altra per luglio abbiamo pensato di dedicarci, non è cinema indipendente, è cinema, diciamo più recente, alcuni film molto vecchi, un po' di qua, un po' di là, sui mostri. Il mostro che è in noi, o che è in voi, diciamo in qualche modo, tutto lo sapete. Vabbè, lo trovate al solito nei posti. Comunque, grazie moltissimo a voi due e basta. Grazie. Ovviamente non vi dimenticate la manifestazione del 3 luglio, esatto, in Piazzale Lodi. E buona serata, grazie a tutti.